Ti posso fare una domanda? Certo, coraggio, ti ascolto. Perché solo giovanissime? Insomma, cosa c'è sotto? Sul serio? È che mi piace viaggiare leggero. Ti piace viaggiare leggero? Oddio! Scusami, ma che cosa significa? Ecco, vedi? Una trentenne ci arriva subito. Vale a dire che ci casca? Vale a dire che l'accetta. Ah. L'accettazione è la chiave. Ok, se è questo che vuoi, una donna non impegnativa, che non capisce il tuo gioco, te lo lascia condurre. Vedo che il nostro rapporto si sta approfondendo a proposito. Non l'hai notato? Sul serio? Forse basta che usciamo di casa, chissà. Eh? No, davvero, facci caso. È interessante, infatti vedi, stiamo tornando verso casa e il discorso è di nuovo ostico. Certo che è di nuovo ostico, stiamo parlando di te. Linee d'ombra. Storie dei nuovi vizi capitali. Di Matteo Caccia. Aveva uno sguardo al tempo stesso giovanile e malizioso, come se il taciuto fosse molto esplicito o comunque esplicitato proprio dal suo sguardo. Non lo faccio più da tanto tempo e se poi mi viene un malore o se viene lui, mi dica lei, dottore, che cosa devo fare? Storie di pasta al forno e di uomini e donne in una puntata tutta dedicata al vizio della lussuria. Erano le voci di Diane Keaton e Jack Nicholson, o meglio, erano le voci dei doppiatori di Diane Keaton e di Jack Nicholson in uno stralcio del film Tutto può succedere, che in inglese era Something's Gotta Give, in apertura di questa puntata di Linee d'Ombra, perché è vero che qui raccontiamo storie legate ai vizi capitali ed è vero che ogni tanto prendiamo un piccolo lato di quel vizio, un piccolo angolo e proviamo ad analizzarlo e a raccontarlo, più che analizzarlo, a raccontarlo da quell'angolo lì. E oggi abbiamo delle storie, lo facciamo perché appunto continuano ad arrivarci le vostre storie, quindi noi partiamo sempre da lì, da storie che parlano di lussuria, parlano di sesso e parlano anche di amore per una parte della popolazione che in teoria non è immediatamente associata a quello, all'amore, al sesso, alla lussuria. E parliamo delle persone più anziane, delle persone in là con gli anni. Ormai la definizione di persona anziana lascia un po' il tempo che trova, dal momento che l'età attiva al lavoro e nella vita privata si alza sempre di più, l'aspettativa di vita in Italia, in Europa, insomma nei paesi occidentali cresce in continuazione. Credo che gli ultimi dati diano come aspettativa di vita per l'uomo 82, per la donna 83 anni in questo paese, però insomma non è forse così precisa, ma giù di lì. Quindi chi è una persona anziana? Quando si diventa anziani? Non lo sappiamo, non ne abbiamo idea. Forse quando si è un po' più stanchi, forse quando si comincia a mollare un po' il colpo. Tant'è, questo non è quello che ci interessa. Quello che ci interessa in questa puntata è raccontare storie di persone che appunto in quell'età in cui si comincia probabilmente a mollare un po' il colpo, invece anche da un punto di vista sessuale, ma non solo, sentimentale, amoroso, ci danno dentro e ci danno dentro alla grande. Quindi vi raccontiamo due storie, una che riguarda una persona che si trova a far parte, si trova, insomma, diciamo che fa di tutto per far parte di un programma televisivo in cui gli uomini e le donne, anche se più in là con gli anni, si corteggiano, e l'altra in cui invece un medico di paese, un medico di famiglia, si trova davanti a una persona molto anziana, di più di 80 anni, che le dice: dottore, ho un problema, sono innamorata e ho un'incredibile voglia di fare del sesso. Mettetevi comodi, benvenuti a Linee d'Ombra. Era solita venire da me a fare una visita generale ogni anno. Abitava a Parma, ma era originaria delle nostre parti. E così approfittava della circostanza per fare una visita ai pochi parenti che erano rimasti a Ferrara e per venire nel mio ambulatorio per una visita. Come spesso accade nella vita, lei mi aveva tributato capacità e onori ben maggiori dei miei effettivi meriti e ricorreva a me ogni anno non solo per fare un controllo generale, ma anche per consultarmi sulle terapie e sugli esami che il suo medico curante, le aveva prescritto. Ad ogni buon conto, ogni sacrosanto anno, in ottobre, mi vedevo regolarmente il nome dell'Imperia sulla mia agenda appuntamenti. Il suo ingresso in ambulatorio aveva sempre qualcosa di teatrale, non fosse altro per il suo aspetto imponente. Era alta circa 1,65 m, ma soprattutto era grossa come lo può essere una donna di 100 kg. e sì che l'Imperia aveva superato da un bel pezzo gli 80 anni. 86, mi disse schermendosi con manifesto orgoglio quando gliel'avevo chiesto l'ultima volta. Teneva ancora lunghi i suoi capelli ormai tutti bianchi, ben discriminati nel mezzo della testa e ricadenti sulle spalle con la piega rivolta verso l'alto. Nonostante l'età, la pinguedine aveva disteso quasi del tutto la sua pelle ed erano ben poche le rughe che adornavano il suo viso. A incrociarla per strada le si sarebbero potuti dare 65-70 anni al massimo. L'ultima visita però non fu molto simile alle altre, almeno in parte. Una lunga e benevola disamina sul comportamento clinico del suo medico curante, sempre guardato da lei con tradizionale diffidenza, e l'effettuazione di alcuni esami strumentali che ancora una volta sancivano uno stato di salute complessivamente soddisfacente, anche senza tener conto dei decenni ormai accumulatisi alle sue spalle. La vera differenza però rispetto agli anni precedenti fu quando l'Imperia, ormai sul momento di congedarsi e di proiettare il nostro prossimo appuntamento all'anno successivo, mi disse così: «Vede dottore, io mi vergogno molto a dirglielo, ma questa è una cosa troppo grossa, è una cosa che io non la posso tenere tutta per me. Mi è capitata una novità che io proprio non so. Lei, che è un dottore, può ben capire, insomma, la mia vergogna. E io, mi dica pure, Imperia, le pare, dopo tanti anni che ci conosciamo». Il suo sguardo, inizialmente smarrito, si riprese dopo pochi secondi, e lo stesso fece la sua voce, che da quasi balbettante divenne ferma e sicura. Sembrava che stesse solo aspettando da me un segno di disponibilità ad ascoltarla. Nonostante avesse più di 80 anni, era una signora che dimostrava ancora, sia nei movimenti, nell'eloquio e nel modo di pensare, dimostrava ancora una pienezza nella volontà di vivere e di godersi la vita. Certamente non le mancava il sorriso sulle labbra ed era sempre piacevole trattenersi con lei. «Allora», mi disse, «dottore, deve sapere che io, dopo che mi sono trasferita con mio marito a Parma tanti anni fa, ho fatto per tutta la mia vita la sfoglina, sa, quell'attività artigianale dove si fanno le tagliatelle, i cappelletti, la pasta al forno. E così è stato finché è morto mio marito, che mi dava una mano in negozio. E allora, quando sono rimasta da sola, io non ce la facevo più a fare tutte quelle cose, stare dietro al banco, e sono andata in pensione. Avevo già 70 anni, credevo di riuscire ad arrangiarmi, solo che, non avendo figli, senza nulla da fare per tutta la giornata, ho scoperto quanto fosse dura arrivare fino a sera. E così, anche per le continue richieste dei miei clienti affezionati, ho ricominciato a fare la sfoglina e la facevo a casa mia. Ho comprato una macchina da casa marca Imperia, proprio come il mio nome, e mi sono organizzata in casa un piccolo laboratorio, in modo da fare più o meno le stesse cose che facevo prima in negozio. Quello che sembrava dovesse essere un passatempo è poi diventato un vero e proprio lavoro. Da prima quelli che abitavano nel condominio, poi quelli dei palazzi vicini, e alla fine ha cominciato ad arrivare tutto il quartiere. Dunque, deve sapere che circa un mese fa è venuto da me un nuovo signore vestito con eleganza, molto più giovane di me, anche se poi l'Imperia mi ha detto che aveva 80 anni. È venuto per comprare 2 etti di tortellini. Dopo 3 giorni si è presentato ancora a prenderne 4 etti. «Le sono piaciuti?» gli ho chiesto, così, per essere cortese. «Buonissimi, Imperia», mi ha detto, «proprio come li faceva mia mamma. Si vede che lei ci mette la giusta passione. Sa, io vivo da solo e mi riduco a mangiare sempre le solite cose, ma i suoi tortellini, Imperia, meritano davvero di essere festeggiati nel modo migliore. Ho perfino fatto il brodo con il manzo e la gallina». Subito dopo è arrivata altra gente e così lui se n'è uscito con il suo sacchetto di tortellini. Non l'ho visto per 15 giorni e poi è ricomparso improvvisamente 7 giorni fa. «Un chilo di tortellini», mi ha detto. «Un chilo? Ma chi li mangia tutti questi tortellini? Mi aveva detto che era solo, almeno ce l'ha un freezer per conservarli?» gli ho chiesto. Lui non mi ha risposto. Ha girato attorno al tavolo, mi ha accarezzato i capelli portandomeli dietro le orecchie e mi ha baciata. Baciata? Le ho detto io, manifestando tutta la mia sorpresa. Baciata, baciata, è baciata per bene, dottore, come una volta, come quando ero giovane. E poi ha cominciato ad accarezzarmi il collo e poi le tette. Le tette? Dissi io, ancora più incredulo. Eh sì, dottore, le tette, che sono sempre state il mio punto più sensibile. Erano 30 anni, o forse anche di più, che nessuno mi toccava. E dopo che è morto mio marito, io non avevo più avuto nessuno. Neanche mi ero data da fare per cercare qualcuno. E adesso, lei capirà, senza nessun preavviso, mi trovavo uno che mi baciava e mi palpava. E le dirò, mentre lui lo faceva, io un po' mi sentivo in colpa, come se mi stessi comportando male, pensando che alla mia età, a queste cose, una donna normale non dovrebbe nemmeno pensarci. E un po', e un po' tanto, se devo dire la verità, la cosa mi piaceva e mi è sembrato di essere tornata come una ragazza. Il cuore mi batteva forte forte e ho cominciato a sospirare, e anche molto forte, eppure lui respirava rumorosamente e si strofinava. Poi hanno cominciato a tremarmi le gambe e ho avuto paura di cadere e non sapevo dove potermi appoggiare. E poi, come è andata a finire? Chiesi io, ormai tutto preso da questa storia boccaccesca. Beh, dottore, per fortuna o per sfortuna, non so nemmeno dirlo io, è entrata una nuova cliente, perché gliel'ho detto, no, che lascio sempre la porta aperta. Per un attimo, appena non ci ha sorpresi, che eravamo ancora abbracciati. Quindi lui ha preso il suo sacchetto di tortellini e se n'è andato, dicendo come se fosse stata una specie di parola d'ordine, che sarebbe passato la settimana prossima per la pasta al forno. La cliente appena arrivata, io credo, non abbia capito nulla e neppure si deve essere accorta che io ero rossa come un peperone, con il cuore a mille, con le mani che mi tremavano così tanto che non riuscivo nemmeno a raccogliere le tagliatelle. Del resto, mica una va a pensare che due vecchi come noi si mettono a fare certe cose. Beh, dissi io, poi la cosa come si è andata sviluppando? Sì, insomma, vi siete rivisti o telefonati? Il suo sguardo in quel momento perse l'aura sicura di cui era solitamente armato e la sua fronte si aggrottò, manifestando tutti gli interrogativi che erano lievitati in lei dopo quell'episodio. Non ci siamo più visti, dottore, e neppure sentiti per telefono. Del resto, quella che lui ha chiamato la settimana prossima è cominciata ieri e oggi è solo martedì. La cosa è stata molto imbarazzante per me, perché la signora, per motivi anagrafici, avrebbe potuto essere mia madre e ovviamente, nonostante io non fossi più un bambino, mi sentivo imbarazzato. Di solito si parla di queste cose con persone coetanee, con persone amiche, non certo con persone che potrebbero essere dei nostri genitori. Io però da allora non dormo più. E neppure di giorno sono serena, dottore. Ogni volta che vedo la porta del mio appartamento che si apre, sono in trepidazione per la paura, ma anche per il desiderio che sia lui. È una cosa molto strana pensare di essere ancora desiderata da un uomo. E mi vado poi chiedendo che cosa intenda lui davvero per pasta al forno. Sì, perché anche se è vero che lui è molto più giovane di me, è anche vero che sono passati tanti anni e io non so come, insomma. E poi, a dire la verità, io mi vergogno a spogliarmi davanti a un uomo. Non lo faccio più da tanto tempo. E se poi mi viene un malore? O se viene a lui? Insomma, mi dica lei, dottore, cosa devo fare? Cara Imperia, le risposi, io non credo di poterle essere di grande aiuto. Nei miei studi universitari abbiamo imparato sul sesso quello che è necessario sapere giusto ai fini della procreazione, ma circa i comportamenti sessuali non finalizzati alla riproduzione, noi medici siamo ignoranti o comunque impreparati né più né meno di tutte le altre persone. Dall'alto della mia impreparazione le dico pertanto che qualunque cosa lei programmi di fare o di non fare, le cose avverranno o non avverranno così come è stato l'altro giorno, quando vi siete baciati. Senza un ordine preciso, senza alcuna impostazione. Quello che sarete capaci o desiderosi di fare, lo farete, e il resto no. Senza per questo crucciarvi o prendervela con voi stessi. Insomma, godetevi la vostra pasta al forno, così come viene. Ho rivisto l'Imperia in ambulatorio l'anno dopo, accompagnata questa volta proprio da lui, dal suo boyfriend. Aveva ragione, un bell'uomo, ben vestito, che dimostrava molti meno anni dei suoi 80. Sin dalla stretta di mano con cui ci siamo presentati, il suo sguardo mi aveva trasmesso segni di cordiale complicità, come se qualcuno avesse già parlato ad un altro dell'altro. E insomma, come se fossimo diventati amici ancora prima di conoscerci. Io non ho fatto alcun cenno all'episodio dell'anno precedente, così pure lei. Nel concedarla, dopo averla rassicurata ancora una volta del suo buono stato di salute, l'Imperia mi ha stretto la mano e mi ha detto sorridendo: «Sa, dottore, in quest'ultimo anno padellate e padellate di pasta al forno. Non ho l'età. Non ho l'età per amarti. Non ho l'età per uscire sola. Avrei nulla da dirti, perché tu sai molte più cose. Di me lascia che ho visto. Lei è Gigliola Cinquetti, ovviamente, che il nostro Luca Micheli ha scelto ad hoc perché insomma questo pezzo ci stava perfetto, anche se Gigliola intendeva non ho l'età, nel senso che sono troppo giovane per fare certe cose, e qui in teoria la storia che ci ha mandato Franco voleva intendere forse sono troppo vecchia per fare delle cose, e invece evidentemente non è stato così. Pronto, ciao Franco, buongiorno. Ciao Matteo, ciao. Grazie per averci mandato questa storia che devo dire è entrata decisamente nella top 5 delle storie preferite di Anita Panizza, che insomma le conosce tutte quasi a memoria, quindi direi che è un ottimo posizionamento. Franco, quanto tempo fa vedevi per l'ultima volta l'Imperia? L'ho vista 6 anni fa l'ultima volta. Ok, che era quella in cui hai conosciuto anche il suo fidanzato? Non l'ho più vista. Senti, tu sei, come si dice, medico di famiglia, medico adesso ha una definizione diversa. Sì, sono stato 20 anni in ospedale in chirurgia e 20 anni sul territorio come medico di medicina generale. E sei in pensione adesso, immagino? No, ho 63 anni, potrei andare, ma ancora sono sulla breccia. Nel senso che continua a piacerti? Sì, mi diverto ancora. Tipo ad esempio oggi pomeriggio, adesso sono quasi le 3:30, quando è che comincia l'ambulatorio? Alle 5, va avanti fino alle 8? Sì. Parliamo di una città, vero? Parliamo di Ferrara, di un paese. sono un paesino in provincia sul territorio. Senti, quante volte ti è capitata una cosa come questa? Non mi è mai capitato. Il fatto dell'Imperia, nome di fantasia ovviamente che ho preso, che ho importato dal nome della macchina, certo. Della macchina per fare la pasta. Ebbene, è un caso molto singolare che anch'io, ovvio, mi sono capitate altre condizioni similari, ma questa è stata molto, ma molto peculiare. Probabilmente per molti pazienti il fatto di essersi affrancati dal senso di vergogna dopo aver esposto le proprie nudità durante la visita medica li rende magari liberi di affrontare certi argomenti così, diciamo, molto personali. Perché c'è ancora un senso di vergogna, l'hai citato proprio tu, a parlare delle proprie cose intime anche di fronte al medico di famiglia? Devo dire che una volta che si è superato così il senso del pudore dovuto prevalentemente alla propria nudità corporale, scatta una specie di automatica disinibizione, o se vogliamo di incontinenza sentimentale, cioè la gente ha voglia di parlare. Quindi è davvero ancora un riferimento quello del medico di base, cioè tu senti tantissime storie che vanno al di là dei problemi, che sia il raffreddore o una malattia più seria, immagino. Il mio vissuto quotidiano è una miniera di racconti, aneddoti, situazioni a volte tragiche, a volte comiche. È un rifornimento continuo per lo storytelling. Senti, invece a questo proposito, una storia come questa te l'ha raccontata una donna. Gli uomini invece, da un punto di vista della propria inibizione sessuale, a che punto siamo noi rispetto appunto a raccontarlo anche a un medico? Beh, devo dire, permane sempre quest'aura così cameratesca, goliardica del maschilismo da caserma. Ah, certo. Per cui le vicende di carattere erotico sessuale vengono fatti di fatti comunicate come una specie di tono decantate complice. Certo, sì, certo, sì, certo. Sì. Niente, non ce la faremo, non usciremo da lì, credo ci vorrà ancora un po' per uscire da quella roba che noi maschi ce la diamo di gomito, come se hai visto le donne sono più avanti davvero. Franco, grazie davvero per la chiacchierata. Volevo dirti che ho un piccolo dolore qui, ma lasciamo stare, lo faccio la prossima volta, perché ogni volta che ti incontri qualcuno, sei un medico, senti, ho un po' la gola arrossata. Grazie davvero Franco, in bocca al lupo per tutto, arrivederci, a presto lavoro. Sentiamo le borse in diretta e poi torniamo qui a Linee d'ombra, storie dei nuovi vizi capitali. E dopo la grande storia dell'Imperia, la puntata di oggi, appunto dedicata alla lussuria, continuiamo a raccontare storie dedicate più che alla lussuria al sesso e all'amore, ai sentimenti tra le persone in là con l'età. La prossima storia me l'ha raccontata dal vivo, proprio a quattro occhi, la figlia di una signora direi molto molto intraprendente. State con noi. La mia famiglia è una famiglia in cui il decoro è una delle regole principali. Non si fanno figuracce. Non ci si espone troppo. Insomma, mantenere una facciata accettabile è uno degli obiettivi principali di ciascun membro della mia famiglia. Mia mamma è ancora relativamente giovane, ha 58 anni, è single da diversi anni e quindi ogni tanto la scopro ad uscire con qualcuno. Lo fa molto timidamente, ma lo fa. Magari dicendomelo dopo. O accennando ad un aperitivo o a una pizza con un uomo. Vive in provincia di Parma da sempre e da quando io mi sono trasferita a Milano per lavoro ci sentiamo al telefono con moderazione per raccontarci le rispettive giornate. Qualche settimana fa sono in ufficio che sto lavorando e ricevo una sua chiamata. Ciao, mi dice. Ciao mamma, tutto bene? Sì sì, risponde lei. Sono a Milano. E cosa ci fai a Milano? Le chiedo io. Lei fa una pausa e mi dice: sono venuta a fare un provino per uomini e donne. Io credo di non avere capito bene e quindi glielo richiedo. Cosa? Lei mi conferma che è a Milano per un provino a uomini e donne, quello però nella versione senior, diciamo così, in cui uomini e donne adulte si incontrano per cotteggiarsi. Io sono stupefatta, anche perché questa cosa è un'assoluta novità. A casa mia queste cose non si fanno. E inoltre per me la televisione è il male assoluto. Mia mamma continua a raccontarmi che è appena uscito dal provino, che è andato molto bene ed è contenta. Io sono una persona molto composta e con lei ho un ottimo rapporto, ma questa notizia io faccio fatica a reggerla e ho letteralmente una crisi isterica. Le faccio una scenata. Tu sei pazza, le dico. Abbiamo un nome da difendere. Cosa ne è della tua reputazione? Metto giù il telefono e sono letteralmente infuriata, ma la cosa si chiude lì e quindi nella mia testa penso che sia finita lì per sempre, che la mia strigliata appunto sia servita a farla desistere. Non ci parliamo per una settimana, cosa molto strana, visto che lei ci chiamiamo quasi ogni giorno. E infatti la cosa non è finita lì. Dopo il provino per uomini e donne senior, non sento mia mamma per diversi giorni, però continuo a cercare di farla desistere, scrivendole messaggi tipo: ti ricordi quando io mi ero fatta il tatuaggio? Ecco, ora io provo la stessa cosa nei tuoi confronti. Passano 3 settimane e io ormai ho dato per archiviato il caso mamma che va a uomini e donne. Fino a quando lei una mattina mi chiama e mi dice: ciao tesoro, sono ancora a Milano. E io di nuovo: cosa fai a Milano? Sono qui per incontrare una persona. e finalmente mi racconta tutta la storia che sta dietro a sto provino di Uomini e Donne. E la storia è questa qua. Un giorno, prendendo un caffè con una sua amica, mia mamma le parla del suo desiderio di trovare un fidanzato. È ancora giovane, è single, ha tanta vita davanti e la vuole condividere con una persona. La sua amica la guarda e le dice: «Beh, certamente un fidanzato non lo troverai qui, in questo buco di paese dove viviamo. Devi assolutamente andare a Uomini e Donne». Adesso vuoi far credere che ti sei ingelosita perché Doriana ha ballato con Tina? Ma scusa, ma chi vuoi mettere nel sacco ogni settimana? Ma chi? Mia mamma non ha idea di cosa si tratti Uomini e Donne e inizia a guardarlo al pomeriggio, in TV, e si accorge che tra i tronisti adulti, se si chiamano così, c'è uno che le piace molto. È un signore distinto, è un architetto, brillante, intelligente, ha 5 anni più di lei, insomma è perfetto. Si chiama signor Doriano. Mia mamma contatta la redazione e prende appuntamento per il provino. Insomma, lei è lì per lui, non per partecipare al programma. Si è proprio invaghita del signor Doriano. Il provino va bene, ma le dicono che c'è una lunga lista di attesa prima di poter arrivare in TV e corteggiare il signor Doriano. Mia mamma però non ha pazienza, vuole conoscerlo sto signor Doriano prima delle scadenze che la produzione le ha dato e quindi dà fondo alle sue doti di Sherlock Holmes. Fa una ricerca online, scopre che Doriano è su Facebook, lo contatta in privato, gli dice che le piacerebbe conoscerlo, ma lui molto gentilmente le risponde che non si può fare, che ha un contratto con la produzione e non può vedere persone esterne al programma, ma mia mamma evidentemente è una grande ammagliatrice, gli scrive ancora fino a che lui cede. Chiede il permesso alla redazione e incontra mia mamma per un caffè. Risultato: il signor Doriano esce da Uomini e Donne e si fidanza con mia mamma. Ora, non so quanto questa storia durerà, ma devo dire che mia mamma si è guadagnata tutto il mio rispetto. Girl, I'm leaving you tomorrow. See a big stone and I borrowed. Yeah. Ooh, that's why I'm easy. I'm easy like Sunday morning. That's why I'm easy. E si chiude qui anche questa parte di racconto dedicata alle storie di amicizia o di rapporti sentimentali tra le persone di una certa età. Ora sentiamo Le strade in diretta e poi torniamo a parlare e a raccontare proprio di questo argomento. Linee d'ombra, storie dei nuovi vizi capitali. Lussuria, tanta lussuria oggi, diciamo tanta, morigerata, ma soprattutto una lussuria, se così la si può definire, che riguarda diciamo le fasce alte d'età. Non vorrei dire le persone anziane perché, oddio, nel caso della prima storia decisamente sì, parliamo di 80 anni, nella seconda un po' di meno, parliamo di persone più giovani, però è uno di quei temi, il sesso fra gli anziani, tra le persone anziane, di cui si parla molto molto poco, a parte alcuni film, alcune letteratura che ne ha approfondito una parte, e quindi abbiamo deciso di farlo e di farlo con la persona che ormai chiamiamo ogni volta che abbiamo qualche dubbio riguardo alla sessualità. Lui è docente di clinica delle parafilie e della devianza alla Facoltà di Medicina e Psicologia dell'Aquila ed è presidente dell'Istituto Italiano di Sessuologia Scientifica di Roma ed è Fabrizio Quatrini. Pronto Fabrizio, buongiorno. Sì, ciao Matteo, ben trovato. Ben trovato a te, grazie mille. Devo dire che sono molto contento di parlare con te di questo argomento oggi perché non è una devianza in questo caso, ma è semplicemente una parte della sessualità. Anche se tu ci hai già insegnato che un po' tutto è parte della sessualità, non esistono vere e proprie devianze. Però tant'è, in questo caso, innanzitutto Fabrizio, il sesso tra gli anziani è un tema? Cioè nel senso veramente è un tema di cui parlare? Non è la normalità il fatto che il sesso attraversi la vita di tutti noi da una certo punto in avanti fino alla fine? Guarda, una cosa che ti dico, perché in realtà è molto delicata appunto il tema della sessualità in età evolutiva, e quando parlo di età evolutiva non parlo solamente dei piccoli, ma parlo di tutto il ciclo di vita. Sì. In realtà ci sono due elementi, no, importanti, due fasi importanti, quella dell'infanzia, quella della pubertà e dell'adolescenza, dove a volte è difficile, no, trattare e parlare di sessualità, e l'altro pezzo è quello della sessualità nelle persone anziane, cioè come se improvvisamente la sessualità venisse relegata solo a quella parte non solo procreativa, ma sicuramente anche di un'età adulta capace, no, di rispondere in un certo modo a quella che è la risposta sessuale. Tendenzialmente invece questa è la cosa più sbagliata, perché facendo parte la sessualità di tutto un ciclo appunto di vita, molto probabilmente esiste una sessualità anche nella persona anziana che deve essere assolutamente anche considerata o comunque supportata, garantendo alle persone di una certa età di comprendere al meglio quelle che possono essere delle trasformazioni importanti nella loro intimità. E questo a volte non viene supportato, e questa è la cosa appunto che dovrebbe essere compresa. Per supportato persone, tu intendi il supportato dai medici o semplicemente dalla società? Da tutti, perché i medici da un lato, a volte anche facendo più chiarezza rispetto a certi farmaci, facendo capire che sono quelli che possono dare delle complicanze, no, rispetto alla risposta erotico-sessuale, ma a volte anche la società stessa, che vede le persone con una certa età sganciate da quello che è invece un'esperienza così importante che sperimenta poi quella che può essere la situazione di piacere. Cioè la sessualità è una espressione non solo ed esclusivamente legata all'atto procreativo, ma è fondamentalmente per eccellenza l'atto che può portare le persone a rispondere a quelle che sono delle sensazioni di benessere, di piacere o comunque di una socialità anche ritrovata, perché non vederla a quel punto anche nelle persone di una certa età. Chiarissimo, no? Cioè, di fatto, insomma, correggimi se sbaglio il termine, un'attività ludica a tutti gli effetti, che ha a che fare con ludica. Il provare e il dare piacere, insomma, quindi ha a che fare con il gioco e con il godimento, insomma, nel senso più ampio del termine. Però immagino, Fabrizio, che cambi la sessualità negli anni, no? Cioè cambia da quando ne abbiamo 20 a quando ne abbiamo 30. Immagino che 70-80 probabilmente le cose siano diverse, non meno appunto divertenti e gioiose, però immagino che siano diverse. Il cambiamento e la diversità fanno parte di due aspetti, quello sicuramente fisico, il corpo cambia, quindi ci sono dei cambiamenti assolutamente importanti che uno non può sottovalutare, e quello a volte delle patologie associate al corpo che cambia. Chiaramente nel momento in cui noi abbiamo chiarezza però rispetto a questo, non è detto che questo porti inevitabilmente ad una diminuzione o una perdita, no, dell'esperienza erotico-sessuale. Ecco perché poi l'ignoranza, no, anche sociale, impedisce probabilmente di comprendere esattamente quelle che potrebbero essere delle esperienze nuove di piacere. Mi viene in mente un film molto simpatico di alcuni anni fa, che era Presento i miei, dove Barbara Streisand in realtà faceva la sessuologa a un gruppo di anziani, dandogli la possibilità di sperimentarsi nuovamente nell'intimità o comunque nell'erotismo attraverso delle lezioni di tantra. Ora non voglio dire che si va a arrivare a questo, però era molto singolare, ma molto divertente, perché permetteva a certe persone di ritrovare, no, un'esperienza che era stata smarrita. Infatti in chiusura ti avrei voluto proprio chiedere se c'era un consiglio che volevi dare a delle persone che magari avevano sopito per via dell'età o per le abitudini un pochettino quella loro parte. Direi che questa potrebbe essere una di quelle, no? Provare a sperimentare cose che non si erano sperimentate prima. Grazie mille Fabrizio Quattrini, che è sempre precisissimo e gentilissimo nello spiegarci le cose della nostra sessualità. Ciao Fabrizio, grazie a presto. Ciao, ciao, ciao. Just

mandarcele a lineadombra@radio24.it. Lasciamo la linea al GR e noi torniamo domani puntualissimi come sempre alle 15 per raccontare storie, perché raccontare storie è il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!